E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo Non ci sono più le mezze stagioni di Roberta Giordano. Eccoci qui finalmente, Roberta Giordano con voi. Però ecco, vi volevo dire che per una volta iniziamo in un modo un po' atipico, nel senso che vi dico sempre cos'è che secondo me conferma il fatto che non ci siano più le mezze stagioni, che per una volta con un'iniziativa assolutamente, come si può dire, inedita, quella cioè della Procura di Napoli, di diffondere un video davvero molto, molto crudo, macabro, in cui si è vista l'esecuzione in mezzo alla strada di Napoli maggio scorso, in pieno giorno, di un uomo da parte di un altro con una pistola. Bene, per la prima volta è successa una cosa del genere, ci sono state molte critiche, molte polemiche, non si possono diffondere video con queste immagini così crude e così violente, però evidentemente la Procura di Napoli ha avuto ragione in questo, aveva bisogno di informazioni, che qualcuno segnalasse se era stato testimone, aveva riconosciuto questo sicario, questo killer. E notizia di poco fa, vi dicevo prima, l'ingresso velocissimo che ho fatto, che è stato identificato, si tratterebbe di un pregiudicato napoletano, l'uomo che ha sparato a Mariano Bacio Terracino, che attualmente risulta irreperibile, quindi sono alla caccia dell'uomo. E questo insomma rende merito comunque la Procura di Napoli, che pur facendo una cosa, proprio questo, non ci sono più le mezze stagioni, nel senso che una prima poco tempo fa non si sarebbe fatta, fino a qualche giorno fa, una cosa del genere, però hanno avuto in qualche modo ragione. Bene, ora entriamo nel vivo di Non ci sono più le mezze stagioni. Già c'entriamo con questa notizia, perché sapete che vi chiedo qual è la notizia che più vi ha colpito in questa settimana e di esprimere le vostre riflessioni, la vostra opinione sui fatti. Quindi il numero verde è 800 24 0024, è sempre quello, 800 24 0024. Ma come sempre vi dico chi ho scelto come opinionista estemporaneo questa settimana? Curzio Maltese. Curzio, buongiorno. Scusaci, insomma, per questione di forza maggiore siamo entrati con quasi mezz'ora di ritardo e mi prendo l'impegno con te, se vorrai ritornare in una delle prossime puntate, così abbiamo un'ora invece che mezz'ora, all'incirca. Comunque, Curzio Maltese, per credo insomma, notissimo, uno dei più noti giornalisti italiani, editorialista di Repubblica, ha pubblicato diversi libri. L'ultimo si intitola, per Feltrinelli, La bolla, la pericolosa fine del sogno berlusconiano. Curzio, tu dai già per finito questo il sogno berlusconiano? Beh, secondo logica sì, cioè nel senso, poi ci vorranno 3 mesi o 3 anni, ma è un po' difficile immaginarsi Berlusconi ricandidato alla soglia degli 80 anni. Ma chissà, alle prossime elezioni. Non è mai successo, non sono mai successe tante altre cose, però insomma questa è un po'... Sai che l'Italia è un paese speciale, Senti, e quindi... Il progetto comunque non era quello, il progetto era di arrivare al Quirinale e quel progetto lì è fallito, quindi sarebbe comunque una soluzione un po' bizzarra perfino per un paese bizzarro, Senti, Curzio, per quanto riguarda questo il tuo libro, dici che l'Italia vive appunto da 15 anni in una bolla politica e mediatica, e dici proprio il berlusconismo. Sì, non dico cose poi molto diverse da quelle che dicono persino gli esponenti di Confindustria, cioè l'Italia ha da 15 anni rimosso i problemi seri, stiamo parlando di altro da 15 anni. Chiunque vinca le elezioni. I problemi seri d'Italia sono il debito pubblico, il mondo del lavoro, la ricerca, la scuola, la scolarità bassa, le opere pubbliche che non si fanno, l'evasione fiscale che rende il nostro paese più ingiusto di qualsiasi altro paese in termini di fiscalità, e tutte queste vicende, problemi che abbiamo accantonato e appunto parlando d'altro, inventandoci soluzioni facili a problemi complessi, e questo è stato il berlusconismo, la vittoria della demagogia un po' ovunque, non solo nel centro-destra, in questi 15 anni. Nel libro io, dato per scontato, forse sbaglio, ma insomma penso di non sbagliare, la fine di questa stagione, della Seconda Repubblica, di Berlusconi, eccetera, cerco di guardare oltre, cioè di quali saranno i problemi che dovremo affrontare quando sarà finita questa vacanza Ecco, e questo lo si scoprirà leggendo il libro di Curzio Maltese. Adesso andiamo sui fatti della settimana con Curzio, mi interessa molto il suo punto di vista sulle tantissime notizie che si sono succedute, affastellate anche in questi giorni. Prima di prenderci un'altra piccola pausa, vorrei sentire dal primo ascoltatore al numero verde 800 24 00 24 soltanto il titolo della notizia e poi Paolo da Roma ci dici il resto, le tue riflessioni dopo. Paolo. Eccoci, grazie per avermi chiamato. Grazie a te Paolo. Sono telegrafico. Sì. Mi auguro che non si sappia mai la persona che abbia collaborato per dire questo nome a Napoli. Del video, sì, il testimone. Credo che viviamo in un paese, l'Italia, dove chi denuncia, chi collabora con lo Stato rischia molto la vita, rischiano i suoi parenti. A volte, sì. Veramente, sono molto contrario a questa collaborazione, non è una provocazione la mia, credo che sia molto pericoloso. Chiunque denuncia poi è dovuto andare via da dove... parliamo anche ovviamente di Pizzo, adesso di qualsiasi altra situazione di estorsione e quant'altro. Paolo, hai voglia di approfondire dopo o per te finisci qui la riflessione? Sì, ho voglia anche di approfondire, non c'è problema. Comunque dico, basta vedere come lo Stato non è presente col fatto dei poliziotti che sono scesi, cioè non abbiamo neanche le forze dell'ordine che riescono a tutelarci. C'è stata la protesta questa settimana. Che la gente si deve immolare per la patria, ma stiamo scherzando. Paolo, okay. Io direi però, invece continuiamo a avere coscienza civile, se siamo stati testimoni eccetera, piuttosto chiediamo allo Stato di proteggere davvero con grande efficacia chi si sacrifica, perché testimoniando quando non ne hai un interesse tuo personale, insomma, vuol dire veramente offrirsi per il bene dello Stato e della nazione, insomma, no? Prendere un killer che ha fatto fuori nel centro di Napoli, quindi un omicidio mafioso, e voler testimoniare e dire sì, io lo riconosco, e questo è un atto di grandissimo coraggio, perché proprio come tu dici ci si può poi rovinare la vita. Facciamo in modo di poter avere fiducia nelle istituzioni anche in questo senso, che se prendiamo coraggio domani e denunciamo, poi siamo efficacemente, fortemente protetti, come è giusto che sia. Però direi anche di avere sempre un po' un punto di vista, come dire, anche extraterrestre. Riflessioni da Marte. Qua su da Marte, guardando la Terra, va detto davvero, non ci si annoia mai. Soprattutto puntando occhi e antenne verso la penisola italica, e specialmente quando anche qui sul pianeta rosso arrivano anticipazioni in esclusiva. E questo, signore e signori, è un vero scoop. Ebbene, molti si saranno convinti, più o meno consapevolmente, che i vari scandali sessuali riguardino solo gli uomini politici, i maschi cioè della politica italiana, dando per scontato che le donne della politica ne siano esenti. Ebbene no. Via illusione. Sentite un po'. Una donna politica, di cui non diremo il nome e nemmeno il cognome, ma posso darvi l'indirizzo se volete, è stata scrupolosamente spiata nei giorni scorsi, opportunamente in coincidenza con la partenza del di lei marito verso la Corea del Nord, dove egli, sprezzante del pericolo, sta cercando di esportare il gorgonzola. Bene, la deputata, poiché di questo si tratta, non è davvero la donna tutta casa, chiesa e Parlamento che si pensava. La sera stessa della partenza del marito, ella è rincasata in un orario non proprio, come si può dire, da Santerellina, 00:47. Ma il video girato all'insaputa della deputata, sepolcra imbiancata, svela ben altro, che bene che i deboli di cuore non sentano. Nel letto matrimoniale, dove si è coricata alle ore 2:23, signore e signori, non era sola la deputata, mentre il marito Tapino, lo ricordo, era in viaggio verso la Corea del Nord a cercare nuovi mercati per il gorgonzola. Bene, la svergognata questa deputata, dall'apparenza irreprensibile, giaceva nel letto avvinghiata a un'enorme giraffa di peluche made in China. Lei, tra l'altro, che si era tanto battuta per la salvaguardia del made in Italy, per di più la giraffa di peluche, alla quale appunto era strettamente avvinta, era, come il 98% delle giraffe di peluche, femmina, insomma una vera pervertita. L'ennesimo, ma certo più imprevedibile, scandalo che domani sarà su tutti i giornali. Ma c'è dell'altro: dopo secoli di prosciutto sugli occhi, neanche di buona qualità, si è scoperto che anche la Torre di Pisa ha strane inclinazioni, voi mi capite, vero? E in questi giorni si sta decidendo se darle una bella raddrizzata, raderla al suolo o darle il foglio di via. Si deciderà probabilmente secondo coscienza, coscienza che, come molti sapranno, è la scienza delle cosce. E rieccoci insieme, allora ritorniamo con i piedi per terra. Curzio Maltese sempre con noi. Curzio, grande giornalista italiano, editorialista di Repubblica, che ha appena pubblicato La bolla, la pericolosa fine del sogno berlusconiano, al quale vorrei chiedere tantissime cose. Curzio, ti vorrei chiedere, non so se avrò tempo di fare la sintesi disperata come faccio ogni volta delle tante notizie della settimana, ma intanto vorrei chiedere a tua scelta se preferisci parlare per esempio del caso Marrazzo e sapere se tu trovi delle analogie, delle differenze, quali siano tra lo scandalo Berlusconi e lo scandalo Marrazzo, appunto su questioni sessuali, diciamo, oppure se pensi per esempio che parlando del PD, delle primarie e di Rutelli, tu pensi che Rutelli cerchi un centro di gravità permanente che non gli faccia mai cambiare idea sulle cose, sulla gente, prima o poi, ecco, diciamo, che dici, Curzio? Parlare di entrambe e perfino del filmato, cioè nel senso che poi affrontiamo in questi anni in realtà lo stesso problema, cioè il fatto che nel mondo e in Italia in particolare si è persa la cognizione tra fiction e realtà, cioè ormai le storie, le notizie vengono raccontate come in una fiction, in maniera assai poco credibile. Anche a me ha, diciamo, istintivamente dato repulsione quel filmato sull'esecuzione. A Napoli, sì. Ma d'altra parte è un filmato che illustra meglio di tante parole come sia banale il male. Non ci sono le sparatorie della piovra, non ci sono. Le esecuzioni sono quella cosa miserabile e rapidissima che è stata vista lì. E i magistrati che disperatamente hanno mandato in giro quel video sperando di incastrare il killer, poi ci sono riusciti, perché quando la gente ritorna alla realtà si comporta realmente, quindi chi l'irrealtà sono quelli che scavalcano il cadavere e vanno a comprare il gelato. Come succede nel video. La realtà è che quando ti trovi di fronte a una cosa che hai visto, hai riconosciuto quel volto e lo denunci. Scusa, volevo dirti, Curzio, l'intervento di prima di Paolo, che un po' mi ha colpita e credo che abbia detto una cosa che pensano molti e che poi ci si vergogna di dire, però io ritengo che chi abbia appunto testimoniato vedendo questo video e abbia fatto scoprire, identificare insomma chi è il killer, poi speriamo che venga catturato il prima possibile, dice Paolo, però non conviene perché poi avrai la vita rovinata, nel senso non ha fiducia nelle istituzioni, cioè chiunque abbia testimoniato in fatti di mafia o gravi delitti, insomma, poi veramente ha visto la propria vita stravolta quando non ha pagato proprio con la propria vita, quindi con la morte. A parte cercare di contrastare questa mancanza di fiducia e anche di, se vogliamo, di rifuggimento del civismo, però non possiamo essere ipocriti, Curzio, e dire che effettivamente spesso succede così, no? Come possiamo invece? Purtroppo ne ho conosciuti anche di testimoni che hanno avuto una vita schiantata dal fatto che hanno deciso di rivelare quanto avevano visto. Il testimone del giudice Livatino, purtroppo, dell'esecuzione del giudice Livatino è un personaggio che ha vissuto questo inferno. La questione è che quando l'eroe è solitario insomma rischia sempre tanto, quando è una collettività a ribellarsi no, allora quando è stata la collettività a Palermo, a Bari, in altre città del sud a ribellarsi alle cosche, alle mafie, in quel caso sono veramente cambiate le cose, ma è accaduto piuttosto raramente, diciamo, lo Stato non ha incoraggiato queste ribellioni collettive. Quindi l'unione fa la forza anche in questi casi. Curzio, cominciamo a sentire ancora delle ascoltatrici e ascoltatori al numero verde, poi se vuoi ritorniamo su Marrazzo, su Rutelli, eccetera, eccetera. 800 24 00 24, vorrei sentire la notizia di Renato da Foggia. Renato? Pronto? Ciao, sì, Renato. Pronto. Renato, devi proprio spegnere la radio, scusami, perché sì, si sente riecheggiare, ecco. Grazie. Va bene. Perfetto. Nulla. Niente, io ho pensato di intervenire perché il suo appello all'ascoltatrice che mi ha preceduto di essere civili, ha detto lei, e quindi in pratica denunciare, fare in modo che le forze dell'ordine possano utilizzare quel video in maniera tale da riuscire a prendere proficua per le proprie indagini. Sì. Il problema è che purtroppo questo Stato si comporta in maniera tale da scoraggiare in tutti i sensi questo comportamento civile. Non sono pochi, anzi io direi che sono molti, quelli che avrebbero bisogno di una scorta e ai quali non viene data per le motivazioni più varie. Come si fa a fare un appello del genere? Non è un appunto a lei, per carità, lei fa il suo lavoro. No, puoi fare tutti gli appunti che vuole, ci mancherebbe. Ma è chiaro che se io avessi cognizione di chi può essere l'autore di quell'omicidio, io avrei una paura a dovermi esporre, perché so quali sono le conseguenze. Questo è il problema. Il problema è uno Stato che non c'è, è uno Stato che fa appello attraverso i vari canali di cui dispone e poi lascia il cittadino completamente scoperto. Renato, io ti ringrazio moltissimo comunque anche di questo tuo sfogo, diciamo un po' così scoraggiato e amareggiato, però sarebbe veramente importante che queste voci, anche come quella di Renato, si facessero sentire, perché così si capisce la sfiducia e l'appello alle istituzioni, allo Stato, perché davvero cambi rotta, perché anche in questi casi a cui si chiede, quando si parla di omertà, per esempio anche in Sicilia, no? Anch'io a volte mi dico, ma sarà davvero omertà, tout court, così da semplicemente da liquidare in questo modo, oppure è paura reale, paura che se io dico quello che ho visto e sento anche da una parte il dovere di dirlo, però poi che cosa mi succede? Ecco, in questa falla che c'è, in questa discrepanza tra quello che è un diritto dovere e quello che poi si riceve o non si riceve, nel senso di protezione, di garanzia, che insomma quello che si è detto non si ritorca contro di noi, lo Stato davvero deve assolutamente essere le istituzioni consapevoli di questo, se no non si arriva da nessuna parte. Questo bubbone terribile, a parte i delitti così isolati, ma della mafia, della camorra, non si riusciranno mai a sradicare. Curzio, quindi ci stavamo muovendo tra varie questioni, no? Abbiamo affrontato prima quella della notizia che è arrivata poco fa, del video shock che ha rivelato, grazie a un testimone, chi è. Anche quello che diceva l'ascoltatore, io continuo a credere che a parte lo Stato manchi una collettività. Nel Sud ci sono esperienze meravigliose di cui si potrebbe parlare, non avessimo parlato così tanto a Marcegaglia prima, come le cooperative di Libera, quelli che hanno lottato contro la mafia, e quindi quando ci si mette assieme si è sempre molto più forti. Però io posso capire lo sconforto nei confronti di alcuni atteggiamenti delle istituzioni, ma se prendiamo anche il caso Marrazzo, no? E lo colleghiamo a quello di Napoli, allora nel caso Marrazzo, che ci stanno raccontando come una fiaba, perché ci sono talmente tante cose assurde nel racconto di questo caso che bisognerebbe veramente aprire una trasmissione a parte, ma ci sono alcune cose certe, no? Alcune cose certe è che Marrazzo viene sorpreso in un appartamento ricattato al volo da quattro carabinieri, firma degli assegni a questi carabinieri che lo ricattano perché sta con una transessuale. Questi carabinieri poi vanno a Milano e cercano di vendere questo filmato alla Mondadori, che è di Berlusconi. Berlusconi viene a saperlo, telefona a Marrazzo, gli dice: guarda, hanno cercato di vendermi un filmato su di te, io non lo pubblico, eccetera eccetera. Ora, a parte tutte le incongruenze, lì c'è il presidente della regione Lazio e il presidente del consiglio che fanno tutto tranne una cosa che un cittadino dovrebbe fare: denunciare i ricattatori. La più vicina stazione ai carabinieri e dire: guardate, ci sono quattro vostri colleghi delinquenti che cercano di ricattare le persone invece di fare il loro lavoro. Non lo fanno il presidente della regione Lazio e il presidente del consiglio, e si chiede ai cittadini di denunciare, ai cittadini molto meno potenti di queste istituzioni, di denunciare un reato che vedono compiersi davanti ai loro occhi. Beh, certo, l'esempio che ricevono dall'alto non è dei più incoraggianti, questo io posso capire le perplessità, e in quel caso il rischio è molto maggiore, di un cittadino che denuncia un killer della camorra è maggiore rispetto che il presidente della regione Lazio, il presidente del Consiglio denunciano di ricattatori. E certo, l'esempio non è dei migliori. Ci sono delle reazioni della cosiddetta società civile nel sud che sono meravigliose per coraggio e per capacità e per efficacia. Sono delle eccezioni, non sono molto incoraggiate, questo è vero, purtroppo è vero. E lo sentiamo dagli ascoltatori. Ancora al numero verde 800 24 00 24, abbiamo purtroppo pochi minuti ancora, avendo appunto iniziato con 25 minuti di ritardo. Claudio da Firenze. Sì, salve, buongiorno. Buongiorno Claudio. Volevo dire che mi sembra che il caso Marrazzo, al di là dell'aspetto umano, abbia risvegliato, cioè almeno mi ha fatto rivedere un sentimento abbastanza perso ultimamente, è quello della vergogna, no? Non nella sua accezione negativa, ma proprio come quel limite che in qualche modo segna qualcosa di etico, di morale, e mi sembra che noi come paese abbiamo un po' bisogno di ritrovarci in certi punti che segnano un confine fra ciò che è lecito, ciò che è illecito. Claudio, ciò però, che è legittimo. Ecco, interessante sapere, tu ti stai riferendo al fatto che fosse con un transessuale invece che magari con una donna, oppure che fosse con un'altra persona anziché con la moglie, oppure che non ha denunciato, come diceva Curzio Maltese, i ricattatori? Qual è il punto politico che fa il politico di mestiere, che viene sorpreso in una situazione che evidentemente non è compatibile con il proprio ruolo e che si dimette perché paga un prezzo rispetto a un comportamento, no? Questa dovrebbe essere una regola abbastanza comune in una società civile, anche perché, mi permetto di dire, ci sono in questo paese tante persone per bene che educano i propri figli e cercano di trasmettergli dei valori, dei principi che poi nella società ormai sembrano superati, che non è vero, ma l'impressione è un po' questa, no? Io credo che il caso Marrazzo e Napoli siano ricollegabili proprio là dove noi abbiamo perso il senso del limite. Certo? Ma dimmi una cosa, Claudio, se fosse stato trovato con una donna era la stessa cosa? No, ma certamente sì, io facevo proprio riferimento al fatto che lì il problema non è che Marrazzo fosse una donna con un uomo, è il fatto che Marrazzo si trova in una situazione di ricatti, di che evidentemente per un ruolo lui svolge è abbastanza strana. Lui non solo, fa una cosa diversa, non denuncia, per cui evidentemente da un punto di vista strettamente anche istituzionale si hanno dei comportamenti che sono davvero assurdi. Grazie. Però lui ne paga il prezzo, nel senso che mi sembra è il primo esempio negli ultimi tempi dove una persona che sbaglia poi paga. Si è dimesso, quantomeno si è dimesso. Finisco e vi lascio e vi saluto. Grazie. Siamo abituati all'autoassoluzione, noi abbiamo ormai l'abitudine ad essere gli imputati e i giudici di noi stessi, per cui è chiaro e andiamo poco lontano. Grazie Claudio, molto arguto Claudio. E io direi, prima di ritornare sulle vostre telefonate, quel poco che abbiamo ancora con Curzio Maltese, a sentire un po' cosa ne pensa, visto che ha trattato questo argomento, Claudio, io andrei sulla parola anche della settimana. Valeria Della Valle, naturalmente docente di linguistica italiana alla Sapienza di Roma. Valeria, si è parlato tantissimo di trans, di transessuali, al maschile, al femminile, se ne è parlato bene, se ne è parlato soprattutto male, poveri, insomma, qualcuno dice, si dice al maschile, si dice al femminile, chiariscici in questo minuto veramente, Valeria, pochissimo tempo. Parola presente in tutti i vocabolari della lingua italiana che la danno come sostantivo maschile e femminile. Qui poi sono nate delle polemiche perché se la grammatica dice questo, chi invece è transessuale preferisce essere definito al femminile. Ma noi non mi occuperò di questo, ma di altro. Intanto la parola transessuale, alla parola transessuale viene preferita oramai la forma accorciata, sia per motivi giornalistici è più breve, ma direi che non è solo per questo. Trans finisce per avere una connotazione più neutra e forse meno negativa rispetto a transessuale. Poi da altri punti di vista è una parola che ha dato luogo a nuove parole della lingua italiana, penso solo a transfobia, no? La versione ossessiva per i transessuali, o transfobico, oppure con una parola composta con l'inglese transgender, oppure l'ultimissima. ma quella nata, ecco, visto che c'è Curzio Maltese che è un creatore di neologismi, l'ultima è Transgate, no? Quindi lo scandalo legato a questa vicenda. Come mobile la lingua? Come no, è mobilissima. Ultima connotazione, come sempre per chiudere un po' così meno cupamente, la riflessione sul fatto che in fondo, anche se transessuale è formato sul modello dell'inglese, transsexual, però tutto parte da quel trans che non è altro che una preposizione latina, quindi antichissima. Beh, allora che la lingua latina, in fondo, quando nominiamo i trans o le trans, sia ancora così presente nell'uso del nostro linguaggio, mi sembra una almeno questa, se non altro, una constatazione positiva. Grazie Valeria Della Valle, che ci sorprende sempre con tanti collegamenti anche linguistici, culturali, sociologici, di ogni tipo. Ecco, la sua presenza ricca, che avrei voluto estendere anche di più, ma chiedo intanto scusa alle ascoltatrici e ascoltatori che non riuscirò a sentire, ho avuto veramente pochissimo tempo e vi chiedo scusa, ci sentiamo sabato prossimo, le notizie sono sempre tante. Invece a Curzio Maltese vorrei chiedere un commento di chiusura veramente in 53 secondi. Tra l'altro, Curzio, a proposito di fiducia nelle istituzioni, nelle cose, il credere o non credere più in certe cose, ci sono o non ci sono le mezze stagioni, io ti faccio una domanda difficile, so che tu non hai paura di rispondere a domande difficili, no? In questi giorni c'è stata una rivelazione veramente travolgente. Allora, Agassi, tu sai, grande campione di tennis, nel passato ha rivelato, lui che aveva tutta questa capigliatura incredibile, quando si muoveva sembrava quasi l'uomo di Neanderthal, eccetera, ha rivelato non solo che prendeva droghe, non solo che ha odiato il tennis, ma che era solo un toupé, una parrucca, lui è sempre stato pelato. In cosa dobbiamo credere a questo punto? Quello che dicevo prima, che il problema è sempre lo stesso, cioè l'ormai distruzione di ogni confine tra reale e fiction. Ai trans di prima si potrebbe aggiungere la transpolitica. Anche Berlusconi, che telefona a uno del centro-sinistra importante per mettersi d'accordo sul non far pubblicare delle cose, è transpolitica. Mi ha molto colpito, ed è quello che fa impazzire gli osservatori stranieri, il fatto che la gente finalmente capisce che uno che si è comportato come Marrazzo, cioè non ha denunciato un reato, si deve dimettere. Dopodiché non si fa accenno del fatto che il Presidente del Consiglio telefona a Marrazzo non per dirgli vai dai carabinieri, ma per dirgli comprati il video, ammesso che abbia fatto questo. Ma è quello che ha detto il Presidente del Consiglio. Gli ho telefonato per dirgli di comprarsi il video e di farlo sparire. E lui non si deve rimettere. Questo è straordinario. Cioè le regole valgono per tutti meno che per uno. Questa è trans... politica. Bene, con la transpolitica ringrazio Curzio Maltese, vi ricordo, appena pubblicato La Bolla. Grazie Curzio, avremo più tempo dal prossimo sabato. Roberta Giordano, come sempre, intanto vi ricordo domani Storielle dalle 19:30, c'è Sergio Cammariere con me, ci racconterà un po' della sua vita, del suo ultimo disco, e intanto sereni orizzonti a tutti.